Attenzione Andrea, Andrea, Andrea, a cambio. Hola Andrea, a cambio. Attenzione Andrea. Marino, mi senti? Sono Andrea, passo. Grazie. Attenzione Andrea, a cambio. Attento Andrea, Andrea, a cambio. Andrea, a cambio. Marino, qui Andrea. Mi senti? Marino, mi senti? Attenzione Andrea, a cambio. Marino, prova, prova. Marino, qui Andrea, mi senti? Passo. Marino, qui Popomalo. Marino, qui Popomalo. Mi senti? Passo. E comunque qua non è zona d'ombra, qua c'è il sole. Marino, qui Popomalo, mi senti? Passo. Marino, qui non è zona d'ombra, qua c'è il sole. Popomalo, passo. Mi senti, Marino? Fala, passo. Marino, a Popomalo, Popomalo, Marino. Marino, a Popomalo, Popomalo, Marino, mi senti? Passo. Luca, ci sei? Ehi, grazie. Marmitto, sì. Aspetta, entro subito, sono passati 2 ore. No, adesso entro a lavarmi, dai, ci sentiamo dopo. 10 minuti, un quarto d'ora, dai. Grazie, si chiama. Ok. Pillu. Ehi, you. Ok. Vabbè, grazie, ci sei? Ehi, ya. E che facendo, c'è? Nulla, mi stavo guardando il pulino. Facebook. Ah, su Facebook lei? Guardando il salto. Non fai un cane, non fai entrato nessuno. E se vuoi nicchia, buh. Qua il baracchino lo staccato. C'è l'antenna mezzo piegata pure. Come mai? Perché le galerie da un fin di ferro. La lega vi comunque una cosa. Cioè Maria, secondo me è ancora mangia di animali. E chi dai, mi pare. Sarà in coma. Chissà se tu che ci ha vinto. Vinello rosso, bianco. Ma che già non si è sentito. Davvero, mi? Noia. Siamo andati a fotografare la mancata. In via tutta, amici suoi, parenti. Un bel niente, via. E Veravino in banca, Buccioli. Sì, sarà giubiscio. Spumante, panettone, pandoro. Ci sarà fatto che ci c'ha bella. E Ghigio, Ghigio, Flippero, non si è sentito per niente. In coma, Ma io penso che pure la parte, Gio Maria, un po' gli sia un fiato, Luca sarà un palloncino. Lo sai, del bicchio ne ha fatto intendi, chi se maniera ancora, sta facendo il ruttino. E allora, vabbè, dai, lasciali fa, grazie. Marino già è rotondo, già la giubisco. Aspetta 2 secondi che impigiamo, aspetta. Già sono qua. Attento, ma chi sei tu? Torre, caduto sei. Torre, a chi sei? Torre senza motore. Ma chi sei? Mormito sei. E me, Luca, il vestito se sei. Luca. Cucu, cucu. Chi è? Privato sì. Grazie. Eia, ti ho detto se sei arrivato. Sì, adesso ho capito, sono arrivato. Allora oggi hai fatto tardi. No, anzi sono salito presto oggi. c'era freddo, grazie, ve la prendo. Oggi era una giornata balorda, fea, brutta. Brutto, brutto, brutto, vento, acqua, demoni, tutto il male succede oggi. E oggi era la giornata, sembrava una giornata invernale, proprio. Ehi, ehi, aspetta che si accende la luce, ecco qua. Ho chiuso la porta del terrazzo, anche entra di freddo. E poi quando fa giornata è così, mi abbaranuglia, buh! Le giornate così non va bene. E giornate di stare a casa. Ma ti annui, io oggi mi sono annoiato. Quando fa giornate così non mi piace. E Marino è venuto stamattina. Ehi, è venuto, ci abbiamo venuto l'aperitivo e dopo se n'è andato. E con Marino quasi ogni giorno facciamo lo stesso lavoro. Ehi, già lo so, no, era qua, era quando ti ha chiamato. Sì, infatti, me l'ha detto, sono da cosa, da Graziano, e vabbè, ecco. Cioè, ci devo andare a trovare la Graziano quando ha già venuto il tempo. Ci abbiamo fatto una ciuppata. Te l'hai acciuffato tutto allora? E allora, non hai visto che bello rotondo? Quello in discesa rotola. E allora, tutto sudato era detto. Lo sente, non me lo segnare già. Cosa? Ti sei abbassato di tonalità di volume. Il 27 è acceso. Il tono c'è il 27. Allora raggiù Giamà, dottore se sta motore di qua e non mangia riposo. Vuol dire ce l'aspetto il PMR. Salutamelo. E adesso già entrerà qua in PMR. Torre senza motore, non c'è più nelle cose, il 27 non c'è più, deve essere in PMR. Torre caduto, sì. Luca è andato a pulire un pigiama, ora è andato a lunedì sole. chi è che non c'è uscito? Aspetta, grazie. Ha detto Torre, il PMR non rifunziona, va solo in 27. Il 26 non va, va solo il 27, a ritirare lo stipendio. Avanti, grazie, diglielo tu. Tutto lì si imballa che su Cristiano. E come mai rotoli si è il PMR? E lì a basso che in 28 ando in 28, mi penala di più. Non va in trasmissione, va solo in recezione. Chi buona radio è, la sai mi la piace a radio. Prego, so. Bubu. Ma chi non c'è uscito? Bubu. Allora, uno ha detto Bubu, mi sono stia a Tore. Bubu. Andiamo a ver. Bubu. Avanti il moscone. Bubu. Bubu, vieni avanti. Grazie, quello è Marino che fa bubu, non è Tore. Andiamo dove andiamo? No, mi pare più bubu di Gian Maria. Mi ha detto 2 minuti che mi infilo il pigiama. Chi ci mi sa se gli l'avvocato il pigiama, cosa ne pensi, Bacchi? Questo commerciale è andato, buonasera a tutti. Buonasera Marino, buonasera per ascoltato. Ahia. Aspetta, adesso che sono lì, vado giù a prendere il raccolto per le cose, per il PMR. Sono con l'antennino, se no Marino non mi ascolta. Mi ascolti Marino con l'antennino? Ti ascolto benissimo, signor Bacchisio, benissimo. Lascia tutto così. Ma è che l'antennino suo, col gommino sto andando, capito? Va bene, va benissimo. Allora non ci scendo a prendere il raccolto. Capito, perché mi sono dimenticato a portare un succo. Avanti Graziano. Tore, parla pure, Tore c'è in ascolto con l'orecchio d'elefante di 27. Ciao Marino, ben sentito. Ero di Zenni, Luca Montanaro, mi ha detto vada a mettermi il pigiama. A me mi pare che la cavata si sia infurrata l'uretto. È andato a un centro commerciale, grazie, buonasera anche a te. È andato a un centro commerciale, ho preso la grazia. E se lo sta misurando, vero Bacchì? Ehi, siamo sovrappopolati. Mi hai capestato perché sono piccolino e nero. Ehi, andavo. Vediamo se c'è il signor Tore. Signor Tore, Squaletto, avanti. Marì, non può trasmettere Squaletto, solo ascolta perché se ne è imballato il PMR. Altro mai si è imballato. Scusa, non ce l'ha il piccolino che lui o no? Adesso te lo faccio sentire. Tore. Ma dov'è sulla 27? Non pensano. Ma chi? Ehi, Marì. Ma non c'è nella 27 comunque, io ce l'ho accesa, Sì, infatti io l'ho accesa, poco fa mi ha parlato il 27, ma è cioè, dite a Graziano che non posso trasmettere, ascolto solo. Infatti maestro, quello che sta facendo Bobo è Marino. Capito? Però lui adesso non c'è, né il 27 né il PMR. Non c'è perché io ce l'ho acceso e l'ho chiamato ma non ha risposto sul 23, boh. Ma Tore, scusa, ma il portatile non ce l'ha? Non può utilizzare il portatile? Io sto usando il portatile adesso perché l'altro è giù e neanche cosa so, neanche antenna, il raccordo dell'antenna mi manca. Non hai bisogno, ti ascolto bene, ma chi? Va benissimo così. Ma se no l'ho messo con la specie di antenna. Ma già stai uscendo bene, ma chi? Lascialo così. E vuol dire, Tore, direi parlare da l'antenna, va. È sparito. Povero squalo, povero squale. Squaletto. Aspetta un attimino che chiamo una persona se mi risponde. Oppure se voi lo sentite. Attenzione Andrea. Attenzione Andrea, se mi ascolti fai. Batto un colpo. Lo senti, no, grazie. No, negativo, e dov'è questo Andrea? Sa stare oggi lì. È vicino a te Andrea, grazie, vicino a te. No, negativo, non lo sento per niente. Adesso le faccio una bassa, vediamo se entra, vediamo. Forse a me io non lo copio, ma voi ce lo copiate comunque. Prova, qua non lo sento, io no, ma chi già tu lo senti? Nada de nada, grazia, zero riporto zero, non lo sento niente. E lei dice questo è a Sant'Orsola, ma Sant'Orsola è più vicino a te che a me. Poi bisogna vedere le condizioni di lavoro. Bisogna vedere in che punto è, anche se esce lo sento, vediamo se risponde Luca. Luca è me, messo tra il pigiama. Beh, ma che Luca sei con il catto mio, grazie. Allora, mi ha detto che si stava fatto la doccia, si stava infilando il pigiama. Pigiama a quest'ora, allora i bisogni, non andava bene, no? Ma è troppo presto. Avanti, allora, signor D'Acchisio. Stavo dicendo, ma Tore non ce l'ha il portatile. Però lui stava usando quell'altro nel PMR. E io penso ce l'ha il portatile Tore, scusa. Qualche volta l'ho anche sentito, ma è quello che usate per fare il servizio, diciamo, dai. Vuol dire che è passato di tutto. Ecco, ti ho sentito, sto vicino, squalo. Basso, basso, avanti. Tore, chiamate delle varie, Torici. Non fa vedere, va avanti, va chi? Io non lo sento, Tore, voi se non sente Graziano. Graziano, senti tu a Tore. No, no, quando lo sento qua arriva la bomba, e a due baci da me. Mi è sembrato sentirlo basso basso, ma probabilmente lo sto sognando. Tore! La trasmissione non funziona, funziona solo in recensione. E beh, il portatilino non ce l'hai. No, il portatile non va, sta mentendo nel manco. Sicuro sì, io sono col portatile qui. Scusa, portatile, detto dai. Sentilo a Marino, Tone, che sta chiamato. Usa il portatile, già va bene, to. Prendi il portatile e usa il portatile, se non funziona quello là. Me lo bevi. Posso girare in un pigiama, me lo bevi. No, senza pigiama sono. Non l'hai trovato? Nulla, niente. Mi sembra che era steso. Ma me ne hanno infurato. E allora? No, tutta roba, mi dai viaggio. Ehi, già andava, vero Bacchi? Ehi, ciao Luca, buonasera. Ben ascoltato. Ehi, così è. Tore, vediamo un po' se questo Tore parla con portatile. Almeno Luca dovresti sentire. Tore? Ehi, Abacchi, mi senti? Ehi, lo so che c'ho l'altro apparato, quello preciso al tuo. Ma in trasmissione non va, va solo in recensione e basta. Tore, mi senti a me? E come mai, tu? Boh, si deve darci un fiato nel catto di su. Avanti, ciao Marino. Tu Marino non mi sente. Ciao Bacchiso comunque, ciao Ottore, Graziano, Riprim. Ciao Luca. Ari, io non so, ascolto, ma a zero proprio. A zero, va bene che stai, c'hai portati lì, non c'hai, dai, per quello. Aspetta un attimo che sta entrando Andrea da Sant'Ossola. Avanti Andrea, modo da un pochettino, vediamo se ti sei Dettore o Bacchisio, dai. Io non sento nessuno. Dettore. Grazie, non so se mi ascolti. Sì che ti ascolto, il portatile c'ha un po' di QRM, ma già ti sento. E rotto ti sei l'altro. No, esce in trasmissione, non esce. E devo toglierne l'altro perché io stavo cercando di farlo funzionare ma non andava. Adesso sono di ricezione, boh. E come mai? Ma ti sei ballata? Tutto via, ma chi giù avanti? Boh, non lo so cosa sia successo. Andrea, mi copi? A chi giù? Ehi, dimmi Marie. Beh Andrea, non l'ascolti. No, sono col gommino, aspetta che vado giù, prendo il raccordo e via. Un attimino di quel rix e vado giù. Marino, io non lo sento. Non lo senti Andrea, oh, grazie. Ma allora, se mi ascolti, una cazzata. Che grazie è quasi di fronte a te. Avanti Andrea, mi copi? Io vi sento forte e chiaro, sono Andrea, passo. Ehi, ciao Andrea, adesso ti ho copiato in questo passaggio. Mi hai copiato? Marino, ho copiato un passaggio, è sparito. Si è emozionato e si è seduto nella sedia. No, io non lo copio perché sta utilizzando un intendino, ho capito. Mi sta provando, sono già delle prove. Aspetta, Dio, che forse mi è arrivato un messaggio. Aspetta, cosa le dico? Ha detto cosa le dici? Dimmi qualcosa, grazie, che a me forse non mi sente. Ehi, ma mi senti bene a me, Andrea? Sì, forte e chiaro. Adesso già ti sento bene, ma in che zona sei lì a Sant'Ossola, dove c'è il supermercato, quella zona? Più o meno sì, via Mario Cordella. Allora siamo di fronte, io sono alla scuola là, dove c'è l'alberghiero. Sì, allora proprio di fronte a me più o meno. Ehi, a me da qui vedo quelle villette a schiera, tutte le prime palazzine che incominciano a imboccare nella via, vedo. Oh, quella via principale, insomma, Ciao, se mi sei un grazie. Sono qui a Bacchigio. Bacchigio invece è appena più su di me. E anche Luca. Luca è vicino a me. Luca, lo senti? No, per il momento no. Sento solo te. E Bacchigio, Bacchi, lo senti Andrea? Si è allontanato un po', grazie, si è spostato a prendere il bairotto dell'antenna. Dile Andrea se ascolta me anche. Andrea, Marino, lo senti? No, non lo sento per niente a lui. Sento soltanto un'interferenza quando sicuramente parla, ma una volta ogni tanto lo sento. Perché se c'è il portatile tu dovresti fare le prove a spostarti un pochettino, perché queste onde magnetiche sono fatte così. Dovresti provare a spostarti tu, a vedere se lo senti. Marino non ti sente, sente solo QRM quando parli tu, però non ti sente. Neanche io ascolto. Ora provo a spostarmi per vedere un po'. Vabbè, si è zonando, capisco. Scusate, mi stavo chiamando, non subito. Senti, a Torre Squalo. Torre, lo senti tu, Andrea? Torre non c'è. Sarà controllando. Ok, vediamo, Luca. Poi vediamo un po', Andrea, mi senti a me? Sì. Ok, da dove sei? A Sant'Orsola? Dove ti trovi? A Sant'Orsola, hai detto. Come? Non ho sentito bene. Ho detto, dove ti trovi? A Sant'Orsola? Sì. Ah, ok, dato. Torre di Massetto, ragazzi. Graziano. Mimmi. Io Andrea non lo ascolto per niente, nulla. Marino, tu lo ascolti perché? No, Marino non lo sente, io lo sento, Luca lo sente, è qui a Sant'Orsola, è praticamente vicino dove c'è Cesaraccio, dal supermercato, Bacchi. Non è vicino, non ascolto. Andrea, avanti se ascolti Bacchisio. No, non lo sento. No, non ti sente Bacchi, è perché... Lui praticamente dove c'è il Bar Sanna, lo sai dove è il Bar Sanna? Sì, sì, lo conosco bene. E lui è in quella traversa appena scendi più giù, che all'angolo c'è la ridicola, e adesso non c'è più. Lui è in quella traversa, magari lo coprono quei palazzi. Ma Bacchigio, sei col portatile con l'antennina esterna? Adesso con l'antennina esterna, ma lo sente io Andrea, quando parlo lo sento, lui non so se mi ascolta, mi ascolti Andrea? Sì, adesso ti sento. Adesso mi senti, con l'antenna esterna. E Marino ancora c'è? E penso di sì, Marino! Marino si è mangiato il gatto. No, volevo vedere un po' se con questa antenna mi ascoltava Marino. Questa è un'antenna nuova, grazie. Cos'è, autocostruita? Ti l'ho detto, Marino? No, l'altra volta tu ne stavi costruendo un paio, hai detto. E questo è l'ultimo che ho costruito, non te ne ha parlato, Marino? No, non me ne ha detto, non ne parlo io di CB quando mi trovo con Marino, o con te, è rarissimo. A meno che no, non mi domandi che cosa, allora sì, capito. No, avevi detto tu che l'avevi fatta tu l'altra volta l'antenna, che l'hai provata anche e usci più bene. Ma questa è un'altra che ne ho fatto, grazie. Quella che Andrea, quella lì l'ho fatta io. Oh, già sta uscendo, vedi, già sta uscendo bene già. Capito? Quando non c'è nulla da fare impasticci, grazie. Capito? Quando impasticciando si impara. Avanti Andrei. Ma chi? Ma ascolti? Non ti ascolto, tutto quanto ti ascolto Tore. Sì, ho messo il cavo, gli ho attaccato. Ma così ma così. Benissimo, quando scala. E tu come mi ascolti? Molto bene. Cazzo. C'è una bomba, sì. C'è a fondo scala. Vabbè, faccio rugoso io in ogni. Capito? Adesso lo ascolti, grattiamo la torre. Sì, adesso ti sento bene, Tore. L'antenna esterna ti è attaccata e va tu vai. Gli ha attaccato il capo, non ne vuoi attaccare. Non aveva nessuna gana. Ehi, vabbè, ma se esci male di questa maniera. Sì, e beh, io non si vuole accusare, non faccio starlo. No, già ce l'ho l'apparato, quell'altro grande, già ce l'ho. Ah, e allora glielo si a terra. E già, vediamo se Marino è caduto. Marino, accessi. Ui, Marino, sei peso. E Andrea, lo sentivi bene, Tore? Prima no, adesso non lo so. Andrea, ancora ci sei? Sì, sì, sono qua. Stavo ascoltando. Deve essere già chiuso, grazie. No, che sei sopra schiacciato, già c'è ancora, non l'hai copiato, Tore? Cos'è, grazie? Che c'è ancora, Andrea, chiamalo me, guarda a vedere se ti copia, se lo copi bene. Ah, boh, grazie, l'avrei ascoltato, se no. Boh, Andrea, prova a chiamarlo, Tore si chiama. Tore, sono Andrea, mi senti? E beh, l'hai sentito tu? Come che si fa dal fumo, grazie. Io si è fatto fumo. Voglio andare a ti fare, vediamo Luca, ci sì. È andato a farci l'uretto. Ti ha chiamato Andrea, non l'hai copiato, Tore? Stavo combattendo con i cani, con te e due cani combattendo, ma che sono a Gioripuso. Ma l'hai sentito Andrea tu? Lui già ti sente. No, non l'ho sentito per niente, no. Aspetta che ti chiama, chiamalo Andrea. Tore, sono Andrea, mi senti? Ti ha chiamato lui, non lo senti? No, zero porto zero. Sì, eppure è qui a Sant'Orsola, la usci a me e non lo sì. Tu? Ma chi? Zero riporto zero. Intendo a te e a Graziano, basta, non intendo altro nessuno. Chissà se intendo a Marino. Marino! E a me mi senti? Ehi, Gian Marì, chi è che non ti intendo a te? E a Luca non lo senti, neanche a Luca hai sentito. Ciao Giovanni. Ma lo ascolto io a Luca adesso. Anza, intendia, ma se non rispondi. Tore! Fuggito è! È un mito c'è, Tore! No, fuggito! Buonasera comunque a tutti, eh! Buonasera signor Figaro, vorrei appena ascoltato. Avanti, c'è anche un nuovo collega. Andrea, da Sant'Orso, chiamalo tu, Gian Marino, se ti ascolta. No, negativo, non lo sento, Non lo sento per niente, È tutto zitto, sento solo a voi e basta. Andrea, lo copia Gian Maria, quello che ha parlato adesso. Sì, io lo sento. Un po' male, ma lo sento. Ehi, a Gian Maria, lui ti sente, è a Sant'Orsola, Andrea. Un po' in mezzo a quel reme, ma già ti sente. E tu non lo senti niente. Ma evidentemente, ecco qua a Cantellino, io da me non arriva, capito? Magari lui sente a me, ma io non sento a lui, tutto lì. È così. Vai tu. Ehi, oia, non intendo nessuno, Ava. Sono a te, va, intendo. Io mi senti, Tore. Ah, va, sì. Anzi, intendi, a sera Gian Maria, intendi io. Beh. Ma lei becca che curraccia è nata l'antenna, no? Tore! Ah, va a cosa, buro! A giudice noi che fai di curraccia a piccata l'antenna! Speriamo che vi rimangano fulminati! Va bene, io chiudo ragazzi, faccio un saluto circolare a tutti, ciao Luca, ciao Andrea! Ciao Tore, ciao Bacchiso, ciao Marino, ciao Gian Maria. Alla prossima se coincide. Rilancia Bacchiso. Ciao a tutti. Ciao Graziano, buona serata, saluta la signora, a risentirci ancora domani se coincide. Buona serata ancora, mi chiamo tutto per Tore, vai a salutare Graziano. E ok, ciao Graziano, ci sentiamo alle prossime, se tutto andrà bene. Andiamo a vedere, riprende la signor Bacchi. Mi chiamo tutto in mano a Gio Maria, per salutare ancora Graziano. Avanti Gio Maria. Ok, ciao, grazie, ci sentiamo, buon primimento, saluto in casa. Che altro ci rimasto? E poi c'è il coso. Andrea, vai a salutare. Ciao, grazie, buona cena, sotto a Paoletta anche da parte di Marina, dai. Ciao Gio Maria, ciao a Graziano, Bacchiso, dai, io chiudo, vado a cenare, ciao. Ciao. Saluto tutti quanti anch'io, vado a cenare, buona serata, buon proseguimento. Ciao Lulu, non sapevo che c'era anche tu, ciao, buon proseguimento di serata, a domani se coincide. Ora riprendi tutto. Ciao Luca. Sentiamo le prossime, ok. Per pigliati la Vacchi. E cosa? Salutiamo Luca, ciao Luca, buona serata, mi saluto in casa ancora. Ciao anche Andrea che sta chiudendo, anche Andrea. Buona serata Andrea, grazie delle quattro chiacchiere. A domani se tutto va bene. Chi è che c'è rimasto? Mi sembra Gio Maria, io e tu. Ho un altro paio di giri e me ne vado a prendere medicine. Avanti Gio Maria. Ok, ciao Bacchi, stai chiudendo, ho capito bene. Comunque buon provvedimento, saluto di casa e ci sentiamo domani se coincide, ok? Tore, riprendi tu, dai, anch'io chiudo e ci sentiamo domani eventualmente, ok? Ciao Tom. Precoso! Aspetta un attimo, Mari. Ciao Gio Mari, ci sentiamo domani, ci sentiamo, se tutto andrà bene, ok? E prendi Bacchi. Avanti Marino, hai bussato, avanti. Ma Bacchi, non so se hai iniziato a me, ma ti siete molto male adesso, Molto a livello QRM in questo passaggio qua. Ok, ciao Giovanni, ben sentita, domani se coincide. Ciao anche Luca, se mi stai ascoltando, buon QRT, domani se coincide, lo stesso. Avanti, grazie. Ha chiuso Graziano, Grazie, se mi stai ascoltando, buon QRT. Bene, avanti, Tom. Ok. Come ti mai? Sta giù già a danzura. Ho detto che mi sono spostato. Che mi stavo spostando, che mi avevano chiamato, ho capito? Aspetta un attimo, so che sto leggendo un messaggio che mi è arrivato. Io a te sì, proprio non ti... proprio signor Andrea non mi ascolta, Andrea non mi ascolta. Tore, saluto Andrea che io non l'ascolto neanche io, non so perché. Andrea abita a Sant'Orso nelle Villette, Sant'Orso la Vecchia, sta utilizzando un antennino, non so se sta utilizzando. Avanti Tò. Io non l'ascolto neanche, io non l'ascolto neanche, non l'ascolto. Ma chi se forse l'ascolta? Io l'ho ascoltato Andrea, non ha chiuso Andrea, grazie, Tore. Ha chiuso. Vediamo se Marino mi ascolta adesso. Marino, ho migliorato. Adesso è migliorato, ma chi? Va bene, come poc'anzi. Ma per il nuovo passaggio negativo non ti ascoltavo io a livello QRM. Avanti, va chi? Perché l'avevo girata, capito? Avevo girato verso Graziano poco fa. Stai utilizzando un tipo di direttiva, così è. Va benissimo, anda bene. Avanti, signor Tore. Sì, andemmo bene, andemmo. Signor Bacchi, io ti ascoltavo voi, andava bene, ma benissimo. Ripetela mai. Cosa stai utilizzando? Il portatile, detto. A tratti si è uscito. Ho detto, cosa stai usando? Il portatile? Sì. Arrivi bene, una bella modulazione, chiara chiara. Va benissimo, avanti, signor Bacchisio. No, adesso non voglio credere, dottore, perché dottore poco fa, me che mi sentivi di adesso? Eri più forti. Invece a me è al contrario. Te l'ho detto che l'ha girata la questione. Era tutta verso Graziano, dunque a te non ti prendevo. lei la sta utilizzando tipo direttiva, si mette un motorino sotto, si mette un motore di bicicletta e lo fai girare. No, che mi prendo una negra, me la siedo lì nel terrazzo e gli dico gira a destra, gira a sinistra. Attenzione, la negra ti gira le balle, come c'è avanti, grazie. La sera ne ha chiuso, siamo io, tu e il direttore. Esatto, ho sbagliato, là, Tore. Bene, sono andato, Tò. Ma le cose non se le gira, Bacchisio, Caspita, tu vuoi girare le cose, ma non se le gira. Vero, signor Bacchì? Ehi, ma cos'è costruisci questa antenna, Tore? Che la voglio vedere come la fai. Passami a bere un po' credo del Gaima, ma devo salire sul tetto a prenderla. Ah, sul tetto ce l'hai. Sotto tetto, sotto il tetto, quelle vecchie. Capito. Mi pare che da francese e che da italiana, che da di Rubrimmo. Mi pare tutte e due a Baida a vedere che esce più bene. Io sto usando l'americana, to. No, americana non naggio. Io me l'ho regalata americana e sto usando l'americana, sto utilizzando. Andave. Ma del PMR? Del PMR, ehi. Non sei uscito? Ehi, dai, io chiudo perché è arrivata l'ora del merendero, è già passata l'ora. Poi è arrivato lo scultore qua a fianco, senti, sta prestando. Ci sentiamo, Marino, grazie delle quattro chiacchiere, ciao Tole, salutissimo anche per te, grazie della chiacchieratina. A domani, se tutto coincide, ci sentiamo ancora. Bocchisio in QRT, avanti Marino. E chiudo anch'io, mi stanno chiamando, Bacchi, ciao Bacchi, ben sentito, saluto in casa, domani se coincide c'è anche Tore, ben sentito, saluto anche tutti gli ascoltoni e anch'io faccio QRT, dai, avanti Tore per saluto e QRT per noi, dai. E ok, ciao Marino, ciao Bacchisio, ci sentiamo domani se tutto coincide, se tutto andrà bene, ok, ci sentiamo, ciao. Ciao Tore, ciao Marino ancora. Ciao, ciao.